A clean sweep for Rick Santorum on this important day. He wins in Missouri, he wins in Minnesota, and now, you heard it first here on CNN, he wins in Colorado. Grande emozione ieri notte, grande nottata, di nuovo nottata quasi in bianco per noi che seguiamo queste elezioni americane, ma c'è stata una grossa novità, una tripletta, una sorpresa di Santorum. Il primo risultato al di sopra del 50% del voto, una grande performance, un grande ritorno di Santorum. Ladies and gentlemen, I don't stand here to claim to be the conservative alternative to Mitt Romney. I stand here to be the conservative alternative to Barack Obama. Nel suo discorso della vittoria, questo candidato, ex senatore della Pennsylvania, che ha vinto anche l'Iowa, si è buttato direttamente contro Barack Obama, ha cercato di porsi, diciamo, su un livello presidenziale, e devo dire che questa è un po' una svolta. Sono tre stati importanti, non importantissimi, sono tre stati in prevalenza evangelici. Rick Santorum è molto religioso, dunque per lui si trattava di combattere in un terreno davvero amico. Guardando in avanti, forse per lui sarà un po' più difficile, sarà un po' più facile per Mitt Romney, che esce comunque con un occhio nero da questo confronto. Esce con un occhio nero anche perché, diciamolo, se l'è cercata. Quel commento che fece qualche giorno fa, quando disse "non mi preoccupo dei poveri", forse fu un commento fuori contesto, però ha lasciato il segno, la gente continuava a ripeterlo, ha dimostrato una volta di più Mitt Romney di non essere in completa sintonia con l'elettorato repubblicano e direi con l'elettorato americano in genere. Ecco che in questo conflitto fra lui e Gingrich, a quel punto Gingrich ha cercato di tornare all'attacco, si è infilato alla grande Santorum. Da domani Rick Santorum riuscirà a ottenere i fondi.